Per carità, non è ancora il passaggio esclusivo, formalmente la decisione spetta ai capi di Stato e di Governo che si riuniranno a Bruxelles il 24 giugno, dunque c'è ancora un mese. Pare che il caso che ha travolto il direttore del Fondo Monetario Strauss-Kahn è sembrato a un certo punto frapporsi anche sul cammino di Draghi, racconta Dino Pesole, ma l'incarico dovrebbe davvero, a partire dal prossimo 1 novembre, spettare a Mario Draghi, a capo della Banca Centrale Europea, ma non resta che attendere un altro mese. Tra l'altro sul Sole oggi vi voglio segnalare una pagina molto utile per tutti coloro che vogliono sapere le ristrutturazioni della casa, i quesiti dei lettori che sono arrivati e ai quali vengono date risposte su tutte le novità dedicate al tema casa. Le trovate a pagina 35 sugli incrementi volumetrici, sui vialetti privati, sulle relazioni tecniche per abbattere pareti interne, cioè domande pratiche e risposte pratiche che trovate oggi sul Sole 24 Ore a pagina 35 per tutto quello che riguarda la vicenda casa e novità. Devo chiudere solo con una storia che il Messaggero mette in prima pagina, c'è solo tempo per riassumerla. Nino Cirillo in fuga coi risparmi dei clienti. A Castel San Pietro la direttrice delle poste, sfruttando un weekend lungo, un ponte, sfruttando l'ingenuità di tutti, la fiducia del fatto che era la direttrice, pare sia sparita con 2 milioni di euro. Un malloppo messo insieme facendo la cresta sugli interessi di ingenui pensionati, contadini semi-analfabeti. Gli ispettori sono arrivati, hanno trovato tutto inspiegabilmente prosciugato e 2 milioni di euro che sono spariti con la direttrice delle poste di Castel San Pietro. Spiace soprattutto per tutti i truffati. In fuga coi risparmi dei clienti è una storia che trovate in prima pagina del Messaggero. Ci fermiamo alle 8:20 con Giuseppe Cruciani, lo speciale amministrative dopo il GR. Gli speciali di Radio 24. Ragazzi, sono 50 anni che sono arrivato. Madunina, che te brille da lontan, tu t'adore piccinina, dai, in the Domine Milan. Sota ti se vive la vita. Non leggere, a memoria. Sta mai con mani in man. Canta in tutti un tan de Napoli se mer. Ma poi vene chi a Milan. Oh mia bella Madonnina. Ma chi è che canta, Giuseppe? Come canta Alessandro? Iva Zanicchi. Ah, Iva Zanicchi. Iva Zanicchi insieme al ministro La Russa. Credo quello che ha detto Terun. Terun è La Russa, alla fine. Terun. Con Giuseppe Cruciani. Eccoci, eccoci. La zanzara anche al mattino, fino alle 10. Siamo mi avete sequestrato. Le amministrative, parliamo di questo voto. Allora, Berlusconi ha perso. Beh, sì, ha perso Berlusconi. Se uno va a vedere bene quello che è successo ieri a Milano, i voti, le preferenze soprattutto, si scopre che nell'insuccesso del centrodestra a Milano c'è sicuramente lo zampino di Berlusconi, questa volta al contrario rispetto ad altre tornate elettorali. Per esempio, a parte le preferenze di cui già hai parlato durante la rassegna stampa, meno della metà rispetto a 5 anni fa. E c'è anche la questione delle liste, perché la Moratti in realtà non è che abbia preso molti meno voti del complesso delle liste, credo poco più dell'1% in meno. Dunque la Moratti è vero che non è stata trascinante, però nemmeno disastrosa da questo punto di vista. Dunque Berlusconi, che ha molto personalizzato il voto, ha perso. In Italia tutto nasce e muore qui a Milano. Era successo con Mussolini, ora succede con Berlusconi. Chi questo è detto? Puro folklore. L'ex presidente, il primo presidente Piero della regione Bassetti. Lombardia, sì, grande sostenitore di Pisapia. Pisapia, sì. Dice che è come la liberazione dal fascismo nel 45. Beh, c'è anche chi ha detto oggi, Dario Fo, ex premio Nobel, che Berlusconi si ritrova con il culo per terra, tanto per usare un'espressione moderata, ma questo fa parte del folklore, di un risultato inaspettato, clamoroso. Si è sollevata l'onda che seppellirà 17 anni di berlusconismo, come la liberazione dal fascismo, dice Bassetti, a parte che i giochi non sono ancora fatti. E comunque c'è il ballottaggio. In ogni caso, parliamo di questo, Milano, parliamo di Napoli, Torino, Bologna. A Napoli, il tracollo del PD, poi c'è questa sorpresa dei Magistris, ma il terzo polo è scomparso e non si sa, insomma, il terzo polo sembrano lì di non pervenuto, e Grillini, no? dicono siamo noi. A questo punto sì. Anche se poi in gran parte delle città l'Italia dei Valori, non a Napoli, era alleata del Partito Democratico, però certamente a Napoli il Partito Democratico si trova davanti a una, è la seconda questione che viene dopo queste elezioni, la prima è sicuramente il caso Milano, la seconda è cosa farà a questo punto il Partito Democratico a Napoli. Si trova spiazzato, il suo candidato è stato nettamente sconfitto da quello dell'Italia dei Valori, molto voteranno De Magistris, ma molto probabilmente l'indicazione dei vertici del Partito Democratico sarà per appoggiare De Magistris, su questo non ci sono dubbi. Staremo a vedere. Intanto, allora, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, i vostri messaggi al 349 238 6666. Come avete capito, siamo con Giuseppe Cruciani, siamo fino alle 10. Giuseppe, fino alle 10, sì. Fino alle 10, con tanti ospiti, a partire tra poco, ovviamente, dopo la pubblicità e il meteo, parleremo di questo voto alle amministrative. Che ne pensate? Siamo qui. Gli speciali di Radio 24. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua, c'è Giuseppe Cruciani fino alle 10 buongiorno. Con noi a parlare di amministrative in questo speciale. Sono le 8:31 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Allora, iniziamo l'analisi del voto Milano in particolare, ma non solo, ovviamente, con tre ospiti che salutiamo. Il professor Roberto Dalimonte, buongiorno professore. Tra poco lo recuperiamo. Voglio intanto salutare come esponenti politici Marco Follini del Partito Democratico. Senatore, buongiorno Follini. Buongiorno a voi. Così come saluto l'onorevole Mario Valducci del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, qui Giuseppe, abbiamo PD e PDL. Noi abbiamo detto per ora ha perso Berlusconi. Non so se Valducci è già d'accordo su ha questo. Ha perso Berlusconi, Valducci? Io penso questo, è finito il primo tempo di una partita, siamo sotto di un gol, tutte le grandi squadre possono recuperare, probabilmente bisogna mettere a punto le modalità di una campagna elettorale che i cittadini di Milano non hanno premiato. Probabilmente è stata una campagna elettorale che non ha inciso sui temi che riguardano la vita dei milanesi, e siccome sono convinto che prima Albertini, oggi la Moratti abbiano e stiano ben governando la città, dobbiamo tornare ai temi della città. Io mi auguro che in queste due settimane il dibattito proprio sia su questo. Detto Giuseppe, questo, si è parlato d'altro, no? Dicevo Valducci, sì, però si è parlato d'altro. Le questioni della giustizia sono state sollevate dal Presidente del Consiglio, le questioni che riguardano... Insomma, adesso dire che le questioni della giustizia siano sollevate dal Presidente del Consiglio è come negare l'evidenza, cioè come negare l'evidenza che il fatto che c'è una magistratura, la Procura della Repubblica di Milano, che da 17 anni fa centinaia... No, ma io non dico questo siamo, no, questo anche possiamo anche essere d'accordo su questo. Scusi, ma anche durante la campagna elettorale c'è stato un avvio di campagna elettorale tutta legata a un fuoco di fila di presenze di Berlusconi in tribunale e a una distribuzione ai giornali, amici e meno amici, di registrazioni assolutamente illegali di conversazioni. Però scusi Valducci, tutto questo Berlusconi lo ha trasformato anche legittimamente in un tema di campagna elettorale, come ha sempre fatto d'altra parte. Ora, questa volta pare che la radicalizzazione dello scontro, che non è una cosa, non sto dando un giudizio, però è nei fatti, non ha premiato Berlusconi. Lei stesso dice che bisogna parlare più dei temi della città, o no? Ecco, per quanto riguarda Milano io sono convinto di questo. Poi voglio ricordare che nelle ultime tre campagne elettorali abbiamo sempre vinto. La presenza del centrodestra nelle città, nelle province, nelle regioni è maggioritaria in quasi tutto il paese. In questa tornata elettorale noi segniamo comunque degli avanzamenti anche nelle province, nelle città in cui siamo andati a votare. Quindi una cosa è la questione Milano, su cui io ho dato, diciamo, un mio modesto parere, dove secondo me i cittadini di Milano non hanno premiato questa, diciamo, campagna elettorale esagitata su dei ecco, ma di chi è la responsabilità di questa campagna elettorale esagitata? Secondo scusi. Me la colpa non si può attribuire agli uni o agli altri, la colpa è anche, diciamo, di quello che dicevo, una Procura della Repubblica di Milano. Cioè, i giudici hanno fatto perdere, per adesso hanno fatto perdere la Moratti, secondo lei? Per adesso sì, anche perché probabilmente abbiamo fatto giocare la Moratti in un ruolo non suo. La Moratti è un ottimo sindaco, è una persona capace, onesta, valida, professionalmente preparata. Se la portiamo ad agire, diciamo, su un campo, quello dello scontro su temi che non della suo, città, non che non sono suoi, secondo me. Insomma, si è parlato molto, onorevole. Però non è che ha suggerito, non è che qualcuno, evidentemente qualcuno ha suggerito, Valducci dice, qualcuno ha suggerito alla Moratti di portare lo scontro su questi temi qua, per esempio con l'ultimo durante l'ultimo il confronto dibattito sui consiglieri, no, di questa campagna elettorale, Santanchè, oppure qualcuno dice il giornale di Sallusti, Mantovani, no, sottosegretario. No, è curioso che Balducci, che è un esponente di punta del PDL, dica che sono stati, che è stata la magistratura in sostanza a condizionare il voto al primo però turno. Intanto vogliamo salutare il professor Dalimonte, eccoci qua professore, siamo con l'onorevole Mario Valducci del Popolo della Libertà, il senatore Follini del Partito Democratico, il professor Dalimonte. Ecco, professore, lei ha già fatto un'analisi oggi sul Sole 24 Ore del voto. Possiamo dire, come abbiamo iniziato a dire in maniera un po' tranciana, ha perso Berlusconi in questa tornata elettorale? Ha perso il centrodestra. Io non mi riferisco soltanto a Milano, perché la tendenza generale è quella di una perdita sia del PDL che della Lega. Quindi è il centrodestra che ha perso in queste elezioni. A Milano ha perso di più perché è un luogo simbolo e quindi poi diciamo una cosa, adesso bisogna aspettare il secondo tempo. Certo, c'è il ballottaggio, chiaro. Appunto, c'è il ballottaggio, quindi non è ancora detto. Senta, sui dati di Milano ci può dire qualcosa in più? No. Guardi, ancora no? Sulle carte elettorali non sono fatte per fare delle analisi approfondite. Ci vogliono ancora 24 ore, 48 ore per poter studiare bene questi dati, non solo a Milano ma anche in altre città. Per esempio sappiamo poco ancora di quello che è successo al sud, c'è un po' di tempo ancora. A proposito di quello che è successo al sud, Giuseppe, perché qua introduciamo anche il discorso ovviamente con Follini, senatore, dica la sua su Milano, però poi ci interessa anche il suo parere, ecco, su quello che sta succedendo a Napoli. Ecco, no? Senatore Follini, diciamolo chiaramente, secondo lei il Partito Democratico a Napoli a questo punto deve appoggiare in maniera chiara De Magistris, oppure magari ci sono altre soluzioni, libertà di voto, cose di questo tipo? Ma perché lei in un giorno che dovrebbe essere, come dire, di festa per noi, comincia dalla domanda più difficile? Perché intanto, sono fatto così. Giuseppe Cruciani è fatto così, se no non lo prendiamo. Intanto vorrei segnalare che questo voto è stato nazionalizzato, ha un significato generale, ampio, di giudizio sulla politica del governo, e da questo punto di vista i numeri sono lampanti. Sì. Questo è il punto cruciale. Sì, lo ha detto anche lo stesso Berlusconi, lo ha nazionalizzato, se vogliamo. No, l'ha detto. Appunto, è stato trasformato in un referendum e il referendum ha dato un certo risultato. E penso che la maggioranza non si possa sottrarre l'indomani ad una riflessione su tutto quello che ne consegue. Detto questo, per quanto riguarda il Partito Democratico, accanto al risultato di Milano, alle vittorie al primo turno a Torino e a Napoli, c'è a Torino e a Bologna, c'è una difficoltà a Napoli. Contavamo di arrivare al ballottaggio arriva De Magistris, e in tutta Italia c'è una crescita della sinistra radicale dal successo delle liste di Grillo all'affermazione di alcuni candidati che hanno, come dire, quella caratteristica, che indubbiamente a noi pone un problema, che è un problema strategico, non è tanto cosa fare a Napoli. Io credo che sia inevitabile una convergenza su De Magistris. Questo è interessante, no? Lei che fa parte dell'ala moderata del Partito Democratico, chiamiamola così per semplificare, dice è inevitabile alla fine che si convergerà su De Magistris. Tra 15 giorni si forza, insomma, quindi penso che dovrà decidere il partito napoletano, però diciamo, non mi voglio sottrarre alla domanda, sì. Mi pare, come dire, uno sbocco abbastanza inesorabile. Certo. Cioè lei a Napoli, voterebbe De Magistris? Lei lo voterebbe De Magistris a Napoli? Se mi costringe al gioco della torre tra il candidato Lettieri e il candidato De Magistris, non voto il candidato Lettieri. Ecco, cioè butta giù Lettieri, insomma, dalla torre butta giù Lettieri. Però detto questo, io penso che il mio partito debba accentuare il suo profilo riformista, io dico anche moderato, e evitare, come dire, di scivolare troppo in là, perché se si vuole costruire un'alternativa al berlusconismo non la si costruisce radicalizzando la politica dell'opposizione. Però tra 15 giorni si vota, voglio dire. No, però ci sono, mi lasci dire una cosa, Pollini. Io capisco la sua posizione e in parte la condivido anche. Però c'è da dire una cosa: le sue preoccupazioni intorno al voto di Napoli, che hanno che è stato condizionato da questioni locali, come sappiamo, e anche da errori che il Partito Democratico molto probabilmente ha commesso nella fase delle primarie. La sua posizione è, non dico isolata, ma il Partito Democratico in questo momento non si pone il problema dell'alleanza, per esempio, con le forze dell'Italia dei Valori e di Di Pietro. Non se lo pone perché lo dà quasi per scontato, o sbaglio? Io vorrei gettare uno sguardo un po' più in là nel tempo, perché è chiaro che di qui ai ballottaggi la strada è segnata per tutti. Poi però arriverà il giorno in cui si affronterà la sfida del governo, sarà il 2013, più probabilmente io credo che sarà un pochino prima, arriva quel giorno lì e io penso che quel giorno le opposizioni dovranno rivolgere al Paese una proposta che abbia un'impronta moderata, che abbia uno spirito costruttivo, che non sia soltanto il cartello di tutti quelli che sono stati in questi anni a diverso titolo e per diverse ragioni contro Berlusconi. Cioè, tradotto è De Magistris va bene, ma tra due anni vediamo, insomma. In quel momento io penso che il Partito Democratico debba trainare un'alleanza che non sia il Fronte Popolare, anche perché, diciamo, biograficamente uno come me in una roba di questo genere non avrebbe semplicemente senso. Penso che serva un'alleanza che sia, come dice giustamente Bersani, la coalizione dei progressisti e dei moderati, dei riformisti e dei moderati. Io vorrei si può dire che lei, un'ultima cosa su Napoli, scusami Alessandro, si può dire che lei voterebbe De Magistris un po' turandosi il naso? Ma guardi, lasciamo a Montanelli le sue... Vabbè, l'ha buttato dalla torre, si turerà anche il naso. Anche perché turarsi il caso il naso a Napoli. Le ho risposto, non voterei Lettieri in nessun caso, non per la persona, ma per quello che... E dunque voterebbe De Magistris. La rappresenta. Dunque no, voterebbe De Magistris. Potrebbe anche andare al mare a Sorrento, non sei capito, cioè, potrebbe astenersi. No, ma io voto a Roma, quindi... No, lo so, fosse a Napoli andrebbe lì e voterebbe De Magistris, se lo dica, andrei là con... Le ho risposto. No, guardi, Follini, non voto Lettieri vuol dire anche che si prende una giornata di ferie, esatto, e se ne va al mare. No, De Magistris. No, senza andare al mare. Alle urne a votare. Vabbè, io vorrei chiedere all'onorevole Valducci, visto che dice siete 1-0 sotto alla fine del primo tempo, come pensate di recuperare questo 48% Pisapia, 41 Moratti? Cioè, dovete cercare di convincere il 30% dei milanesi che non hanno votato, per esempio, ad andare a votare al ballottaggio? A mio modo di vedere, le ho detto già, bisogna cambiare registro, cioè bisogna dire ai cittadini quello che la Moratti farà in questi altri secondi 5 anni del suo governo cittadino, quello che ha fatto. Io voglio dire questo, sono un milanese e Milano è, in base agli indici economici, una delle città che ha avuto un maggior sviluppo economico negli ultimi 15 anni. Prima Albertini e oggi la Moratti hanno veramente cambiato in meglio il volto della città, dalle linee metropolitane a, diciamo, una riqualificazione urbanistica. Ricordo che a Milano, per i cittadini che non sono di questa città, era una città prevalentemente industriale, oggi chiaramente ha subito un profondo processo di deindustrializzazione, quindi si è completamente trasformata, è una delle poche città d'Italia e secondo me è un fatto positivo, dove si vedono tante gru e grattacieli che sono nati, stanno sorgendo, che è sinonimo di vitalità. Detto questo, io voglio dire anche una cosa, a Napoli l'Italia dei Valori, siccome ho sentito molte dichiarazioni De Magistris, sì, e De Magistris sembra che scenda da un altro pianeta, no? Mentre mi sembra che De Magistris non solo è stato bocciato in più occasioni negli esami di alcuni processi fatti come magistrato, in questo caso territorio, in quei territori, questo non sono io a dirlo, è il fatto che quei processi mi sembra che siano andati in questo momento però. E dopodiché l'Italia dei Valori mi sembra che è stata sodale e compagna di merende con Bassolino per in questi 17 anni. Allora far finta che l'Italia dei Valori di Pietro non c'entri niente con Bassolino, con l'era bassoliniana, con il regime che ha avuto la campagna in Napoli in questi 18 anni, mi sembra un po' azzardata. E saluto il professor Dalimonte ricordando questo: i conti delle amministrative si fanno in base a quante città e quante province si vincono. Ebbene, allora le province, ricordo, due amministrate al centrodestra, due commissariate, sette al centrosinistra, al primo turno noi ne vinciamo due, andiamo a ballottaggio in sei, e quindi, come vede da questi brevi numeri, non mi sembra, dice, che stiamo arretrando. Non ha perso comuni capoluoghi di regione. Allora, tra l'altro, Dalimonte vuole rispondere? No, Dalimonte risponda su questo. Finisco. Comuni capoluoghi di regione, sette, tre governati al centrodestra, quattro al centrosinistra, noi ne vinciamo uno, Catanzaro, loro due, Bologna e Torino, vanno a ballottaggio 4. Sì. Allora, siccome a ballottaggio 4 noi penso ce la giochiamo a Milano, Napoli, Trieste e Cagliari, e allora io non dico che vinceremo in queste quattro città, ma se noi dovessimo vincere vuol dire che passiamo da 3 a 4 per loro, a 5 a 2 per noi. Però allora, non si sfugge alla considerazione, Valducci, che il simbolo è Milano, il simbolo è Milano, simbolo è Milano in queste elezioni, uno dei simboli è Milano. Però professor Dalimonte vuole rispondere prima delle informazioni, sì, dica. Sì, rispondo. Dunque, in questa tornata elettorale sono andati al voto i cittadini di 29 comuni capoluogo, e in 20 di questi comuni governavano coalizioni di centrosinistra e in 9 coalizioni di centrodestra, quindi al momento del voto era 20-9. Io non so ancora come finirà, perché oltretutto ci sono i ballottaggi, ma è quasi certo che non si ripeterà il risultato del 2006, che questo 20-9 a favore del centro-sinistra cambierà, e non sappiamo di quanto. Quindi se guardiamo al risultato, alle vittorie sconfitte, è molto probabile che alla fine il bilancio, si può dire, sarà positivo per il centrodestra, nel senso che potrebbe finire 15-14. Sì, certo, Dalimonte, però le posso dire una cosa, però è vero che i confronti si possono fare col 2006, ma è un'altra era geologica, evidente, no, politicamente. Però, infatti, mi faccia finire, appunto, dicevo, per rispondere a Valducci, quindi dal punto di vista delle vittorie sconfitte è probabile che il bilancio alla fine potrebbe essere positivo per il centrodestra. Però il punto fondamentale, Valducci questo lo sa meglio di me, sono le tendenze elettorali. Dal punto di vista delle tendenze elettorali, il fatto significativo è che oggi il centrodestra è sceso, ed è sceso perché sono scesi entrambi i partiti del centrodestra, entrambi i maggiori partiti del centrodestra hanno perso in termini percentuali rispetto al 2010 sia la Lega che il PDL. Poi naturalmente, se uno fa il confronto invece che con le regionali del 2010, con le precedenti comunali, si può anche dire che la Lega si è avanzata in tutto il nord. Certo. Quindi dipende da... Certo. Ma se invece, secondo me, il confronto corretto è quello con le regionali del 2010, allora vediamo che nei 15 comuni capoluogo del nord, in cui era presente la Lega per esempio ha perso in 14 comuni. Sì. E lo stesso si dica del PDL, che mi pare avanzi soltanto a Novara. Per cui è questo il significato politico, non c'è dubbio, della votazione. Allora dobbiamo andare a dare le informazioni sul traffico e poi siamo ancora qui in questo lungo speciale fino alle 10. Gli speciali di Radio 24. Allora siamo qui fino alle 10 in questo speciale 800 24 00 24. Avremo anche ascoltatori. Poi vorrei chiedere all'onorevole Valducci che ne pensa di questa idea che si è diffusa nei giorni scorsi, anche negli ultimi giorni di campagna elettorale, che peraltro lei ha criticato, dell'idea arriva il comunista a Palazzo Marino. Cioè nel caso detto, secondo me appunto dobbiamo parlare di cosa vuol fare Pisapia nel caso in cui dovesse fare il sindaco di Milano, cioè quali sono le azioni concrete che porterebbe avanti nel governo in questa città. No, perché oggi guardi il Corriere lo mette a pagina 6, sostenitori in lacrime, c'è chi canta Bella Ciao, questo nel titolo, come se fosse, non so, chiede anche Giuseppe, come se fosse una cosa... Sicuramente a Milano c'è stata una forte risposta dell'estrema sinistra, che non andava a votare, alcuni cittadini dell'estrema sinistra non andavano a votare da molti anni alle elezioni, e la candidatura di Pisapia li ha risvegliati. Detto tutto questo, rimane valido quello che ho detto prima, ma volevo dire, fare una breve considerazione sul dato politico anche del voto del Popolo Libertà, se vogliamo un po' contraddicendo quello che diceva il professor Dalimonte. Perché? Perché il Popolo della Libertà, io pigliamo appunto come caso Milano, perché poi le altre città, io ricordo, ci sono una lista infinite cosiddette civiche, che poi civiche non sono storicamente parlando, ma che sono liste che vanno tutte a pescare nel serbatoio del Popolo Libertà. Quindi quando faremo i conti esatti di quanto abbiamo preso come Popolo Libertà, bisogna fare le somme della lista Popolo Libertà più tante liste civiche. A Milano, ad esempio, queste liste civiche hanno preso tra il 3 e il 4%, più il voto del Popolo Libertà, vuol dire che il Popolo Libertà si è posizionato tra il 32 e il 33%, più i voti della Lega Nord andiamo al 41%. Io dico una cosa, questa è la prima tornata elettorale che dopo la scissione, e non è un fatto da dimenticare, anche se Future Libertà ha preso molto poco, perché poi questo è il dato, però non c'è solamente, come tutti sapete, non è la politica un fatto matematico e basta, c'è anche un fatto di un litigio che è andato avanti 12 mesi. No, questo sicuramente ha pesato, vorrei chiederle, Verducci, una cosa. Allora, quindi dire che io devo confrontare le mele con le pere, ovvero il dato di queste elezioni comunali con il dato delle regionali dell'anno scorso, quando non era stata ancora fatta la scissione, a mio modo di vedere. Dunque è sbagliato anche il confronto con 2006, però, a questo punto. Senta, Valducci, però le voglio chiedere una cosa velocemente prima di passare a Follini, ed è questa. Sbagliato dunque, secondo lei, impostare, come qualcuno sembra già voler fare, la campagna elettorale di questi 15 giorni prima del ballottaggio sul terrore, sulla paura del comunista a Palazzo Marino? Ma guardi, sicuramente i cittadini di Milano, avendo fatto un po' di campagna elettorale lì, sono molto sensibili su questo tema. E quale tema? Questo tema che le dicevo, delle origini da parte di Pisapia. Beh, allora, bisogna puntarci o no? Fino al 2006 Pisapia è stato un parlamentare della Repubblica Italiana eletto con rifondazione. D'accordo, ma allora bisogna puntarci su questo tema o no? Ma secondo me sicuramente è un altro tema da mettere sul tavolo, ma e penso che sia prioritario anche sapere esattamente quali sono le azioni che vuole fare, cioè vuole aprire quante moschee vuole aprire. Esatto. Milano, no, ma Valducci è chiarissimo, ieri l'onorevole Santanchè, ieri era qua, Giuseppe, da te, cosa ha detto? Se va a Pisapia è il Leon Cavallo, arriva il Leon Cavallo e la droga senza libera. Se e senza ma, la droga libera senza. Senta, Follini, voglio chiedere una cosa, lei che è molto attento a quello che succede nel terzo polo e pensa che ci debba essere un'alleanza naturale tra il Partito Democratico e il terzo polo, mi sembra che da queste elezioni esca un terzo polo fortemente ridimensionato, o no? Ma insomma, cercherei di essere più generoso. Era la prima prova, non è stata sfavillante, ma non credo neppure che si possa esprimere un verdetto negativo. Naturalmente il problema del terzo polo, secondo me, non è tanto la conta dei numeri. Il problema del terzo polo è la direzione di marcia, l'indicazione strategica che si assume di qui in avanti, perché è chiaro che questo risultato porrà all'ordine del giorno il tema della ristrutturazione del centrodestra. E quindi penso che debbano decidere se cosa fare, insomma. Se la loro destinazione è quella, oppure, come io credo, se la distanza che hanno preso dalla cabina strategica della maggioranza è tale da non consentire un ritorno da quelle parti. Io penso fortemente che il loro destino non sarà quello di rincontrarsi con Berlusconi e con Bossi. E tuttavia il loro vero problema è decidere che cosa fare. Quindi sta dicendo al terzo polo: non votate la Moratti, per esempio, al ballottaggio. Insomma, più no, io dico o Lettieri a Napoli. È ovvio che io dica questo, però la mia curiosità è di capire come come voteranno? Risponderanno loro a questa domanda. Effettivamente sì. Allora, noi intanto ringraziamo il senatore Marco Follini del Partito Democratico, l'onorevole Mario Valducci del Popolo della Libertà e il professor Roberto Dalimonte, che dire, con Giuseppe Cruciani. Siamo qua fino alle 10, poi ci chiedono di Giannino. Giannino ha ancora impegni professionali questa settimana, ma ritorna. Ma torna, pensa, torna, pensano torna. Che qua no, facciamo oggi colpi faccio di Stato. Il sostituto di Giannino. Sostituto di Giannino. Immodestamente. C'è gente che ti scrive... Cruciani adesso ce l'avrà ancora con Beppe Grillo, poi li chiami Grillini, invece devi chiamarli Movimento 5 Stelle, no Grillini, sembra che li prendi in giro. No, no, Grillini li chiamano tutti. Anch'io li chiamo Grillini, mica è un'offesa chiamarli Grillini, Movimento di Beppe Grillo. Allora, parleremo anche di questo, insomma, fino alle 10 staremo, ora c'è il giornale radio. Gli speciali di Radio 24. Eccoci qua, sono le 9:10 minuti, sono Alessandro Milan e qui a fianco c'è Giuseppe Cruciani. Eccoci. Ripetiamo ancora, nessun golpe, lo spazio di Oscar Giannino, è questo. Settimana prossima torna, smaltiti i suoi impegni professionali, sarà qua con noi. E allora, parliamo di amministrative, fino alle 10 abbiamo già analizzato la questione Milano, eccetera, poi ci sono anche qualche curiosità, una... Te la volevo sottoporre, Giuseppe, l'ho persa, eccola qua. Che ne pensi di un candidato sindaco in Molise, in provincia di Isernia? Giovanni Davide Petrocelli. Sai quanti voti ha ottenuto? E dimmelo, quanti? Zero. Ma non si è votato? Evidentemente non votava lì. Perché... sì, ma non aveva manco è un arrivato fratello, in ritardo, un cugino, una sorella. Non lo so, zero voti, credo sia il record. Assoluto. Zero voti, vabbè. Sentiamo qualche ascoltatore, 800 24 00 24, Lorenzo dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno a voi, volevo fare tre veloci considerazioni. La prima, sarà abbastanza curioso vedere De Magistris, che non sapeva fare il suo lavoro da magistrato, provare a fare un lavoro da sindaco che in realtà, dicono, è molto complicato. Lorenzo, la prima posso rispondere, poi Giuseppe risponderà alla sua. Chi l'ha detto che non sapeva fare il magistrato? Lo dice lei, e no, io non lo so. E secondo, chi l'ha detto che farà il sindaco? Penso proprio di no, perché vincerà, credo, Lettieri, cioè in vantaggio Lettieri. Comunque vada con la seconda. Non lo so, la seconda che volevo fare, a mio parere, il calo di consensi a Milano della Lega, che ha fatto di più a Bologna che nel capoluogo lombardo, è dovuto al fatto che la campagna elettorale, a mio parere, è stata completamente sbagliata. Bisognava picchiare duro sul fatto, a mio parere, che Pisapia vuole realizzare la moschea. Vediamo se nel secondo turno. Esatto. Vabbè, io questa cosa, Giuseppe, tu l'hai capito, io questa cosa della moschea non l'ho proprio capita. Io dico, ma non per dire sto con Pisapia, sto contro Pisapia, ma magari ci fosse una moschea in una città. Andate a chiederlo a tutti quelli nel quartiere dove ci sono ogni settimana, ogni venerdì, i musulmani che mettono e pregano per terra, per la via pubblica, perché non c'è una moschea. Chiedetelo a quelli di quel quartiere se vogliono una moschea. Credo che la costruiscono con le loro mani, se possibile. Però, che non sarebbe un dramma per Milano la costruzione di una moschea. È anche vero che in campagna elettorale si usa, utilizzano, certo, anche questo tipo di attacchi, questo tipo di argomenti. Dunque, il timore di una moschea a Milano, ricordate sicuramente, gli ascoltatori ricorderanno la prima pagina di Libero di qualche giorno fa, con i musulmani che pregano davanti al Duomo. A me fa più, questa fa è la più Milano, specie quello, certo, però, questa tipo, è la Milano che preghi in una moschea. Di Pisapia, questo era il messaggio. Lorenzo, ha finito? Era la terza considerazione? Le aveva fatte tutte e tre? A posto, grazie, arrivederci. Voglio andare a Foggia da Carmine, buongiorno. Carmine. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Finalmente posso parlare con Cruciani senza sottovalutare lei. Dica. Niente, volevo farti gli auguri, Cruciani, lo so che tu oggi sei felice. Però non puoi esprimerti come vorresti. Che ha vinto felice la, perché ha vinto io non sono perché Lazio. Io sono felice per altre cose, non per cose che riguardano la politica. Non va bene, va bene, ho capito. Comunque, finalmente il centro-sinistra sta cominciando a lavorare benino. Potrebbe lavorare meglio se non penserebbe il PD solo alla poltrona, ma penserebbe a qualche programma preciso, efficace, su alcuni punti fermi. E questi vogliono gli italiani. Purtroppo Berlusconi è caduto da tempo. Siamo noi della sinistra che lo stiamo facendo, lo teniamo in vita perché per questa ragione delle poltrone. Gente come me di sinistra, che hanno sempre votato a sinistra, e come me ce ne sono tante, non appartengono più a nessun partito politico. E quindi questo discorso di pensare solo ed esclusivamente a governare e fare una politica solo per governare il paese è sbagliato. Noi di sinistra non crediamo in questo, perché negli anni passati, quando la sinistra era forte, stava all'opposizione, noi avevamo più diritti, avevamo più cultura, avevamo più informazione e più di tutto. Va bene, va bene. Grazie Carmine. No, però non mi devi chiudere la linea adesso, perché ma sai che chiudere la linea? Ha parlato per due minuti, che linea chiusa. Poi non sono trascurare l'ITV, perché come si è visto a Napoli, se stanno insieme, Sinistra e Libertà e ITV, ce la faremo tranquillamente. Bene, ce la farete. A proposito di Napoli, credo ci sia in collegamento Raimondo Pasquino. Buonasera. Buongiorno. Come sta, signor Pasquino? Io sto bene, sto bene. Beh, 9,74%, non è male, eh? Accidenti. Se pensa che siamo all'11,47 con le liste. Con le liste, sì, è vero. Il ciclone dei Magistris, diciamo che abbiamo fatto un piccolo miracolo e di questo ne siamo orgogliosi. Diciamo però Raimondo Pasquino da chi ha appoggiato. Allora, terzo polo, Unione di Centro, Futura Libertà, Alleanza per l'Italia e una lista civica. In tutto quanto ha detto con le liste 11,48 per adesso, ancora non è chiusa. Adesso, perché a Napoli non è chiuso lo scrutinio, anche questa è una notizia. No? Quindi siamo già consolidato l'11,50. Oh, la domanda Pasquino, la che domanda tutti principe vogliamo fare è questa. Lei che indicazione di voto darà? Quella per Lettieri o per De Magistris? E anche chi voterà lei personalmente, a parte l'indicazione di voto, ce lo dica. Su. Quindi il dado è tratto ormai, bisogna rispondere, il dado è tratto. Gli elettori ci pensano. Intanto domani abbiamo una riunione con Fini e Rutelli. Guardi che la politica non è un fatto semplice, è un fatto articolato. Certo. E gli elettori vanno rispettati, va esaminato qual è stata l'indicazione dell'elettore, perché il problema non è la volontà personale. Uno può andare per simpatia o antipatie, ma se vuol fare un discorso corretto con gli elettori deve capire loro come intendono farsi rispettare e come intendono orientare le loro scelte. Però Pasquino, mi scusi, il dilemma davvero, che vorrei coinvolgere anche Giuseppe su questo, è davvero cruciale per tra 15 giorni, perché il terzo polo si deve riavvicinare al candidato di Berlusconi, il Popolo della Libertà, o deve votare il magistrato manettaro per eccellenza De Magistris? Questa è la questione che viene posta. Viene posta nei termini estranei invece agli interessi degli elettori. Gli elettori vogliono che i problemi della città siano affrontati e risolti, non c'entra nulla la magistratura, non c'entrano nulla i berlusconiani, c'entrano coloro i quali hanno ricette e soluzioni per i problemi. Siccome noi ne abbiamo proposte, quelli che ci dimostrano di essere più vicini alle soluzioni, ai problemi del programma che noi abbiamo presentato, quelli possono essere come i nostri interlocutori, ritengo. E dunque, scusi Pasquino, questo va da sé naturalmente, però secondo lei chi è il più adatto a risolvere i problemi di Napoli? Se lei la vuole mettere su questo piano, il candidato del centrodestra o quello dell'Italia dei Valori, che probabilmente sarà appoggiato dal Partito Democratico? Io dico che noi dobbiamo guardare più che chi è più adatto in termini personali, che ha una storia ed ha un passato in cui il pubblico prevale rispetto agli interessi privati. Dobbiamo salvare questa città. E allora vedremo come si porranno le questioni e come Prima della riunione di domani non gli scuciamo un niente. No, però Pasquino durante la campagna elettorale ha detto una cosa interessante. Noi al secondo turno, se arriveremo al secondo turno, naturalmente quando ci sarà il secondo turno, perché naturalmente durante la campagna elettorale non è che si può dare per scontato nulla, saremo col candidato, diciamo, della legalità. E di fronte a una domanda De Magistris o Lettieri ha detto insomma si può pensare anche a De Magistris. Fosse per lei, cioè lei fra 15 giorni Raimondo Pasquino va alle urne e che cosa sceglie, De Magistris o Lettieri? Vede una persona che ha chiesto il voto ai cittadini e che si è impegnato a rispettare la volontà dei cittadini e che poi non ne tiene conto quando andrà a fare una scelta anche personale, perché poi la mia scelta personale coinvolge tutti coloro. Vede, io domani vado a Roma, ma da dopodomani in poi comincio a incontrarmi con quelli che sono stati le persone che hanno raccolto il consenso. Ma però scusi Pasquino, lei non è che potrà avere il polso di tutte le persone, migliaia di persone che hanno votato con l'11% il vostro, diciamo, che hanno appoggiato lei. Quindi non è che potrete fare un sondaggio a capire chi preferite. No, sono voi 46.000 voti, 46.000 cioè, voti. Quindi un'indicazione dovete darla. Poi uno l'elettore è libero di fare quello che vuole. No, no, va bene. E vede, è in questo che non ci troviamo. Io non sono libero di fare quello che vuole. No, l'elettore, cioè, no, interessante questo. Lei non è libero di fare quello che vuole. Cioè, fosse per lei. L'elettore, certo, e perciò le dico: noi dobbiamo innanzitutto avere rispetto degli elettori. Noi abbiamo incontrato migliaia di persone nei comizi che abbiamo fatto e gli elettori ci chiedevano di essere rispettosi della loro volontà. Beh, ho capito, la volontà qual è? Come si fa a interpretare la volontà di 46.000 persone? È difficile. La volontà è quella di capire se chi ha rispettato la posizione anche che noi abbiamo espresso e chi non l'ha rispettata. E chi l'ha rispettata di più, De Magistris o Lettieri? Ma diciamo che gli incontri non abbiamo avuto la fortuna di incontrare Lettieri, quindi come facciamo a dire? Ah, che non quindi rispettata? per ora insomma. Per ora diciamo ma per ora c'è la possibilità, cioè, vuol dire è c'è un'incollatura di vantaggio De Magistris, ma esatto, c'è la riunione. No, domani. Diciamo la verità, Pasquino, fosse per lei voterebbe De Magistris, diciamola tutta. Io questo non lo sto dicendo, lo sta dicendo lei. Cioè, ma guardi che ci sarà la libertà di voto, Pasquino, scusi un attimo, è possibile che il terzo polo a Napoli dia la libertà di voto o ci saranno invece un'indicazione chiara? Sto con Pasquino, non ci caschi, Pasquino. No, la libertà di voto è come dire è una finzione, tra l'altro è una non avere la responsabilità di dire ai propri elettori: noi riteniamo che questo candidato con questo programma risponda meglio. E dunque questo è interessante, se fosse per lei, poi naturalmente i vertici magari dei partiti decideranno in un altro modo, fosse per lei no, la libertà di voto è da escludere, bisogna scegliere tra Lettieri e De Magistris, giusto? Bisogna dire con chiarezza quali sono i punti programmatici che ci collegano all'uno e che ci collegano all'altro, su questo non ci sono problemi. Bisogna vedere. Pasquino, noi la ringraziamo, insomma, perché grazie. Non ci faccia sapere cosa decidete, Pasquino. Ci faccia sapere. Anche magari. Però fosse per lei, io lo so, Pasquino, perché l'ho incontrata. Fosse per lei l'ultima persona che voterebbe è Lettieri. Diciamo, ma non la te lo dice? Sì, lo dice. No, ma il problema è che va molto al di là delle persone. Però Pasquino, prima abbiamo fatto con Follini il gioco della torre. Allora lo faccio anche lei. C'ha due alternative: o butta uno dalla torre o vota uno, sono? Oppure va a Sorrento al mare anche lei. Ci dica tra le Sorrento, guardi, c'è un mare con la scogliera, quindi non è tempo da mare. No, ma chi butta giù dalla torre? Lettieri o De Magistris? Si tura il naso e voti. Se deve scegliere uno dei due, chi butta giù? Ma guardi, io preferisco non far suicidare nessuno, lasciamoli vivere. E allora faccia vivere uno, fa il professore universitario a Salerno, il rettore dell'università di Salerno. Lei promuove tutti, è una persona moderata. Lei, Pasquino, promuove tutti. No, c'è anche chi viene bocciato, chi non ho capito, però. Chi è arrogante, non segue le lezioni, alla fine poi. Ecco, viene allora bocciato. Andiamo su questo filone. Scusi, Pasquino, lei che è il rettore dell'università di Salerno, no? Sì. Che voto dà la campagna elettorale di Lettieri? Un 3 meno meno. 3 meno meno. No, De Magistris? In trentesimi, rettore, scusi. Trentesimi, sai quando si dà la boccia? Tre trentesimi. Così. E De Magistris? De Magistris, c'ha un 28. Allora sappiamo. 28, sappiamo per chi vota. Scusi, uno che prende 11 punti in più dei voti dei partiti che lo hanno appoggiato, che prende il 16% come liste quando di partenza ne aveva 10, che mai lei pensa che può pigliare meno di 28? È uno che ha portato una tesi di laurea. Vabbè, ci ha detto chi voterà. No, infatti, guarda, De Magistris è clamoroso perché prende 100 per adesso, 125.000 voti. Ma è clamoroso, i suoi voti personali come candidato sindaco e 67.000 delle liste, cioè un trionfo pazzesco, sì. Dire che non ha 28 per stare stretti. Grazie rettore, grazie Raimondo Pasquini. Per essere stato con simpatico noi. Simpatico sto Pasquino, mamma mia. Però non siamo riusciti a scucire. Però lui vota De Magistris, si sa. Mi sembra abbastanza chiaro. Mi sembra abbastanza chiaro. È dato 28. Insomma. Sentiamo un paio di ascoltatori. Poi credo riusciremo ad avere anche una voce dalla Lega, dal nostro amico Matteo Salvini. Fino a poco fa era in TV, credo, ma adesso lo blindiamo. Gianluca da Firenze, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Interessante quello che sta succedendo, perché erano anni che non si vedeva una situazione così. Beh, innanzitutto che un rettore dell'Università di Salerno, una persona moderata, un signore anche di una certa età, a Napoli scelga De Magistris, giovane, ex magistrato, rampante. Non è che proprio l'ha scelto, adesso dopo gli facciamo così, dire insomma, cose. La verità lui, è che cioè, una preferenza ce l'ha, magari poi obtorto collo. Beh, gli ha dato 28. Insomma, no, obtorto collo non può dire pubblicamente che voterà De Magistris, non potrà dirlo perché magari l'indicazione dei partiti... Domani c'è la riunione. Saranno diverse, però ciò comunque è un fatto importante. Comunque, Gianluca, dica. No, appunto, è una tornata elettorale particolare, chissà qui a Milano, De Magistris a Napoli. Però secondo me tutto si può, secondo me, chiaramente a mio modesto parere, tutto si può ricondurre al fatto che comunque, se poi le cose verranno confermate, è finita la stagione di Berlusconi, secondo me. La sconfitta di Milano è emblematica in questo. Io penso sia il dato politico più importante, perché dopo 20 anni di dominio assoluto. Sconfitta al primo turno, io credo che alla fine verrà confermato, però ricordiamolo, cioè il primo turno, per carità, però ci sono anche le preferenze dimezzate. Berlusconi aveva avuto 50.000 preferenze nel 2006, ne ha avute 25.000, 26.000. Secondo me questo è un voto che testimonia la stanchezza forse di un periodo che ha contraddistinto l'Italia negli ultimi 20 anni. Però ecco, in prospettiva futura mi sembra, visto il potere che ha avuto, diciamo, la componente berlusconiana, penso in prospettiva futura sia il dato più importante, perché cambierà completamente gli scenari. Vabbè, grazie Gianluca. Andiamo, perché andiamo un po' di corsa prima della pubblicità. Voglio sentire Alessandro da Napoli. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, salve. Io volevo fare semplicemente un appunto in merito a due situazioni, quella di Milano, che diciamo mi riguarda parentalmente da vicino. Perché? Che vuol dire? Quella di Napoli. Che vuol dire parentalmente? Che vuol dire parentalmente? Per il cognome che porto, diciamo. E cioè? Qual è il cognome che porta? Cioè, lei si chiama Alessandro Pisapia? Sì. Che vuol dire parente? Parente di Pisapia? Parente di Pisapia. Sì, esatto. Ma Pisapia è un nome di origine napoletane, o sbaglio? No. Come? È un nome di origine napoletane, Pisapia? Sì, diciamo che viene dal sud. Quello che mi aspetto. No, ma scusi Alessandro, lei chi è? Cioè, parente in che senso? Nipote. Esatto, sì, sono nipote. Cioè, suo zio, Pisapia. È suo zio? Sì, di secondo grado. Ah, ma scusi, ma non nasconda, non è un crimine, non è parente di Totò Riina, scusi Alessandro. No, sembra, glielo stiamo strappando con le tenaglie. No, poi dicono che vabbè comunque, ma che dicono? Cioè, è nipote di Pisapia, succede nella vita di essere nipoti di uno che fa il candidato sindaco a Milano, ripeto. Non è un crimine. Dica qualcosa di suo zio di secondo grado, dica. No, vabbè, ma io sinceramente mi aspetto una recrudescenza da parte della destra nei suoi confronti e attacchi scorretti su tutti i fronti, io ne sono sicuro, perché ho avuto modo di capire che persona è, e soprattutto io penso che in questo momento forse sarà un caso. Due persone a Napoli, De Magistris, ho avuto il piacere di conoscerle personalmente, e Pisapia a Milano, sono due persone appartenenti entrambe al mondo della legge. Vabbè. Della legge. Ricordiamo avvocato Pisapia, ex magistrato, certo. No, va bene Alessandro, Alessandro Pisapia, adesso intanto la ringraziamo qui, perché ci dobbiamo fermare un attimo, non prima di avere salutato Matteo Salvini della Lega, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Allora Salvini, dobbiamo chiederle un minuto, due minuti di pubblicità e poi, insomma, è la prima volta che sentiamo, no, Giuseppe, la voce della Lega, Milano, tra poco. Gli speciali di Radio 24. Eccoci qua, Alessandro Milan con Giuseppe Cruciani, fino alle 10, dunque, in questo speciale amministrative. Allora siamo con Matteo Salvini della Lega. Eccoci qui, la voce della Lega, la sentiamo. Voce importante, perché voce Salvini importante. È il più eletto a Milano della Lega, no Matteo, giusto? Sì, avere tanti voti ma perdere come squadra non mi interessa, quindi la partita dura altri 15 giorni. Altri 15 giorni. Ce la pensate davvero di ribaltare? Perché allora, intanto un giallo vorrei capire, perché sulla Padania dice Bossi parlerà oggi, però tutti i giornali scrivono che Bossi avrebbe detto se perdiamo è colpa di Berlusconi, è colpa del Popolo della Libertà. Beh, ieri Bossi non ha parlato, quindi o c'erano delle microspie o i giornali hanno qualche veggente che gira per gli uffici, oppure è meglio che Bossi parli per conto di Bossi, non per interposta persona. Ci sono questi retro, cioè avrebbe detto ai più stretti collaboratori, insomma, tutti i giornali lo riportano. Dai retroscena ogni tanto mi accorgo di aver detto cose che non ho mai detto nella vita, quindi aspettiamo che oggi è lunedì, Bossi parla lunedì, quindi ecco, ai però giornali il loro mestiere. Facciamo un gioco, Salvini, il gioco è questo: siccome il risultato è stato sicuramente deludente, certo, per dire poco, facciamo una scala di responsabilità. Partiamo dal numero 3, anzi no, partiamo dal primo. Chi ci mettiamo? Berlusconi, la campagna elettorale di Berlusconi negli ultimi 15-20 giorni, forse un mese. 2, lo scarso appeal di Letizia Moratti. 3, qualche errore magari anche vostro, non lo so. Chi ci mettiamo al primo posto? Ma errori no, non metto sul podio la graduatoria degli errori, sicuramente abbiamo sbagliato, altrimenti saremo qua a commentare una vittoria. Però a fine primo tempo, quando sei sotto di un gol, non è che vai a prendere col portiere, con l'attaccante, col centrocampista, ti ricarichi e adesso la partita è chiara, non ci sarà la scheda. Ieri era un lenzuolo e 350 milanesi non hanno avuto motivazioni per venire a votare, evidentemente anche per demeriti nostri e per torti nostri di mille e una maniere. Sicuramente non avremmo pensato di andare al ballottaggio con Pisapia in vantaggio. Però se magari la smettiamo di parlare di tematiche nazionali, filosofiche, giudiziarie e parliamo della metropolitana che arriva all'orenteggio, che passa da Viale Zara, della scuola... Come prima ci ha detto Valducci, il Popolo della Libertà, insomma è stata sbagliata questa campagna elettorale, diciamolo chiaramente Salvini, dal suo punto di vista, sbagliata questa cosa dei magistrati, le brigate rosse, le procure... C'è stata una campagna di questo tipo sia da destra che da sinistra, perché da sinistra io... di Pisapia non ho ancora capito cosa vuole fare per alcuni quartieri, è stata anche berlusconiana, appunto. Ma secondo me si è sbagliato sia da l'una parte che dall'altra. Questa è l'occasione, perché ormai ci sono due scelte in campo, anche per chi non ha votato Moratti, magari non è andato a votare anche se è moderato in centrodestra per i toni della Moratti, per il famoso dibattito su Sky dove ha parlato del furto d'auto presunto di Pisapia e chi se ne frega. Ci sono due modelli di Milano molto diversi, la Milano del centrodestra e la Milano in Pisapia. Dal mio punto di vista, Pisapia è una degnissima persona, giù il cappello per il suo risultato, la coalizione che sostiene dura 6 mesi. Io sarei tentato di fare il capogruppo della Lega all'opposizione, perché vorrei vedere come si amministra Milano tenendo insieme Rifondazione Comunista. Lei dice un po' come Prodi, come l'ulivo di Prodi. Sì, però mi spiacerebbe per i milanesi dover tornare però a votare l'amministrazione, vediamo di togliergli diversa, il problema. L'amministrazione di una città è un po' diversa rispetto alle... Sai, quando ci sono tematiche calde su Milano, come quella sulla sicurezza, sullo sviluppo di alcuni quartieri, e a sinistra la pensano in maniera diametralmente opposta, metti d'accordo i radicali, Rifondazione Comunista è una parte della curia, cosa dura? 3 mesi, 6 mesi? Sicuramente anche il centrodestra ha i suoi torti, Lega in primis, ci mancherebbe altro, però io penso che alla fine la scelta Moratti-Pisapia riporterà al voto molti di coloro che sono rimasti anche giustamente alla finestra. Però ieri Salvini, si discuteva qui con Giuseppe Cruciani, insomma la Lega, in realtà la Lega a Milano ha perso da una valanga di voti, sì, rispetto alle regionali del 2010 eravate al 14,5%, anche rispetto alle politiche del 2008, cioè le previsioni, le previsioni per quello che riguarda il voto della Lega a Milano erano certamente superiori, c'è chi come pensava al 14, perso? Al 15, è deluso. Guarda, da questo punto di io ai sondaggi non credo né quando sono positivi né quando sono negativi, so che la Lega esce da questi anni di amministrazione su Milano, e con questa faccio il confronto con un consigliere comunale su 60 e col 3,7% dei voti, so che ci rientra se perde con 4-5 consiglieri, sì. Se vince con 7-8 consiglieri, quindi è un'altra vita, è un altro modo rispetto di al 2006, però rispetto al 2010 è vero che sono altre elezioni, però insomma un'altra elezione, hanno 30 simboli sulla scheda, c'erano 10 candidati sindaci. Ma non è un po' deluso dal numero dei voti della Lega a Milano? Ah beh, certo, sono stato più contento se la Lega avesse preso più voti, no. Se la Monaco avesse vinto al primo turno. No, certo, voglio dire, deluso dal voto della Lega a Milano, cioè si aspettava più voti anche per la Lega a Milano, lei o no? sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Quindi ci riflettiamo anche noi, ovviamente non sono. Cioè non è che la Moratti vi ha trascinato giù anche voi? Non do responsabilità, ripeto, conto le 57.000 persone che hanno votato il simbolo della Lega, nonostante il momento per il governo sia economicamente che dal punto di vista internazionale non sia il massimo della vita, ovviamente, però ripartire da 57.000, cioè 5 anni fa ne avevano presi 20.000. Senta, invece dire. Salvini, c'è un'altra accusa che aleggia un po' sui giornali, è quella dell'idea del voto disgiunto. Ah, che si può... però spieghiamolo agli ascoltatori, perché qualcuno dice che molti elettori della Lega hanno votato il simbolo Lega, ma non hanno votato il candidato sindaco Letizia Moratti. Qualcuno addirittura potrebbe aver votato per Pisapia. Cosa che può aver riguardato una fascia molto limitata e molto edotta di persone, nel senso che già la scheda era incasinata di suo, addirittura votare un partito e un altro candidato sindaco, se la mettiamo così, nei seggi dove votavo io in via Ruffini ho visto più di un voto per il PDL che non aveva Letizia Moratti come candidato sindaco indicato, ma penso che sia lo zero virgola, non è su quello che dobbiamo analizzare. Sì, anche perché se si vanno a vedere i voti presi da Letizia Moratti, in realtà non sono molto distanti dai voti della coalizione, sono l'1,5% in meno rispetto al voto della coalizione. Però diciamo due cose, Salvini. La prima è che la Lega non ha mai avuto grande entusiasmo per questo sindaco. Le faccio una domanda molto... molto chiara, ci fosse stato un esponente della Lega come candidato sindaco, le cose sarebbero andate in maniera diversa? È vero che a Milano siamo cresciuti tanto, ma non ancora in maniera tale da esprimere il candidato sindaco. È vero che in tre grossi comuni lombardi, dove la Lega ha corso da sola contro il PD e contro il PDL, siamo al ballottaggio da soli, quindi parlo di Ro, parlo di Desio e parlo di Nerviano. Però lì la Lega ha altre percentuali, a Milano stiamo crescendo, ma il PDL ha ancora pur sempre il triplo dei nostri voti. Senta, quindi Salvini, che fosse il PDL a esprimere la domanda che si fanno e si pongono i giornali oggi, Francesco Verderami per esempio la mette sul Corriere in maniera molto chiara, è questa: è chiaro che lei mi dirà ma tanto recuperiamo e pensiamo di vincere, se a Milano il centrodestra perde, il governo è a rischio, cioè è a rischio l'alleanza, partono i coltelli PDL e Lega, insomma. Ma guardi, io ho fatto notte ieri sera, sono un po' rimbambito, ho letto un po' di giornali stamattina, ho letto dei retroscena anche simpatici, assolutamente tipo? Fantasiosi, ma su alcune cose dette o fatte dalla Lega che mai abbiamo né detto né fatto, però è chiaro che a Milano la sinistra parte in netto vantaggio, i numeri sono lì da vedere. Ma il governo secondo lei scricchiola se dovesse perdere Milano? Berlusconi, cioè comunque è il feudo di Berlusconi, è il luogo dove la Lega, insomma. Il voto per i sindaci è il voto per i sindaci, la situazione nazionale è altra cosa. Sicuramente ci sono decine di ballottaggi, c'è Milano, ma c'è Varese, c'è Novara, c'è Napoli, ci sono le province di Mantova e Pavia, quindi fra 15 giorni potremmo commentare uno scenario completamente diverso. È chiaro che a Milano partiamo in netto svantaggio e nessuno va a dire che... Però se la sinistra pensa di aver già vinto ha sbagliato i conti, ripeto. Tanta gente che non è venuta a votare perché sulla Moratti magari storce il naso, ha torto, ha ragione, non mi permetto di dirlo perché gli elettori hanno sempre ragione. Adesso perché non dovrebbe storcerlo più? Alla fine è perché, ripeto, non tanto per Pisapia, non mi interessa il passato comunista, è degna persona, ha fatto un'ottima campagna. Dunque non bisogna puntare sul passato comunista di Pisapia in questi 15 giorni. Non mi interessa il passato di Tizio Di Caio. Quello che mi preoccuperebbe da milanese, ripeto, è una coalizione che secondo me dura 3 mesi perché ha tutto il contrario di tutto dentro di sé, quindi non vedo come potrebbe portare Milano ad essere capitale mondiale con l'Expo. Ecco, è vero che Bossi è furibondo, Salvini? Ma no, Bossi ieri sera era assolutamente sereno e analizzavamo i voti. Beh dai, Salvini sereno. Vabbè. Assolutamente sereno. No, non ci invece il dato di Milano sicuramente ha stupito, sorpreso e amareggiato tutti quanti, perché nessuno si aspettava di andare al ballottaggio in svantaggio. Questo è lì, cioè, da vedere. Lei l'ha visto ieri sera? Lei l'ha visto ieri sera, sì? Sì. Fino a che ora? Se posso, fino a tardi, come? Insieme, però giustamente si commentano i dati, numeri alla mano, e quindi oggi penso che dopo le indiscrezioni giornalistiche che gli hanno fatto dire tutto il contrario di tutto, oggi parla lui e quindi il problema non si pone. Parla Bossi. Che ne pensa Salvini, lei che ama Napoli, di Napoli? Cioè, che succede a Napoli? Era una specie non di battuta venuta male quella di Amo. Non lo so. Non me ne frega niente. No, mi stupirebbe che a Napoli una forma di sinistra venisse riconfermata visti i disastri pluridecennali. Cioè, una forma di sinistra che è De Magistris, una forma di sinistra. Però è un candidato lontano mille miglia, diciamo, da Bassolino, eccetera. Se vuole vincere deve chiedere i voti da sinistra. Questo non c'è dubbio. A Napoli riesce a rivincere la sinistra, giù il cappello, meglio del mago Silva. Ecco, però non è una cosa si può dire. Finora, durante le campagne elettorali, Berlusconi dava il meglio di sé, no, Salvini? Cioè riusciva a cambiare un po' in alcuni casi le sorti del voto. Per esempio nel 2006, ricordiamo tutti, c'era una distanza molto forte tra centrodestra e centrosinistra. Berlusconi, con una campagna elettorale formidabile, riuscì ad accorciare quella distanza. Ora, il miracolo di Berlusconi, Salvini lo può dire, finora a Milano non si è visto. Diciamo che c'è una crisi economica a livello internazionale che sta punendo ovunque chi sta governando. Però non me la butti sulla crisi economica. Se io sono in cassa integrazione e se porto a casa 600 euro al mese, non è che se Berlusconi mi dice qualcosa in più o in meno posso cambiare idea. Quindi questo sicuramente rispetto a tre o quattro anni fa fa la differenza. Però voglio dire, il miracolo di Berlusconi non c'è stato. Me lo dica questo qua, no, questa volta non si è visto il miracolo di Berlusconi. Altrimenti staremo commentando. No, d'accordo. Questo mi sembra evidente. Però voglio dire, le puntare come ha fatto Berlusconi su uscire fuori dal tribunale, i comizi, la giustizia, cioè cosa hanno nociuto di più? Per esempio, la vicenda Lassini, quanto è stata negativa per il centrodestra, secondo lei? O l'uscita della Moratti? Vedo che di voti non ne ha presi, e quindi, ma questo lo dico non conoscendolo personalmente, non mi permetto di giudicare la persona, però con soddisfazione, perché dice che i milanesi votano sui fatti e non sul manifesto più o meno brillante. I numeri sono quelli. Cioè lei è soddisfatto per lo scarso successo di Lassini? Abbiamo abbiamo teso a sottovalutare quello che abbiamo fatto, ripeto, a Milano, perché Milano è una città che in ogni caso, con mille problemi, che è una città di 1.300.000 abitanti, sta crescendo, sta scavando, sta costruendo, sta abbellendo, sta risistemando, quindi non puntare su quello che si è fatto e su quello che si sta facendo, secondo me è stato un errore, metterla sulla politica generale, insomma in Lorenteggio mi chiedono quando arriva la metropolitana. Lorenteggio è un quartiere di Milano, per chi non lo sapesse. Va bene, Matteo Salvini, la dobbiamo salutare e ringraziare, grazie della Lega per essere stato con Facebook. Noi. Ci sentiamo su Facebook sempre. dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Tanto notizia della Francia, il padre di Sarkozy conferma Carla Bruni incinta. Aia, ma dicevano che erano due gemelli, no? Guarda un po', insomma, dai le informazioni incomplete, due gemelli o un bimbo solo, una bimba. Il padre di Sarkozy conferma. Perché Carla il padre Bruni di Sarkozy? Ha confermato la gravidanza della premier dame Carla Bruni al quotidiano tedesco. In Francia stanno pensando ad altro, che c'è Strauss-Kahn, c'è la vicenda Strauss-Kahn, nominato dallo stesso Sarkozy nel 2007, pare che Sarkozy gli abbia detto stai attento lì in America con... Sì, pare che però oggi, no, ci stanno facendo questa divagazione, visto che ho fatto la rassegna stampa, pare che su Libero, sì, Strauss-Kahn, che era ossessionato dalle possibilità di controllo da parte di qualcuno, in un incontro, in un summit, si è affiancato a Sarkozy in un pisciatoio, quindi mentre pisciavano, sì, e ha detto a Sarkozy smettetela di controllarmi voi. Perché in campagna elettorale, in previsione della futura campagna elettorale per Eliseo, magari si pensava di colpire Strauss-Kahn anche su questo tema, per i tuoi complotti. Punto. È un complotto. Complotto. Strauss-Kahn. Traffico, chiama il traffico. Gli speciali di Radio 24. Eccoci qua, fino alle 10, ma gli ultimi minuti con Alessandro Milan, che poi sono io, e Giuseppe Cruciani. Eccoci. Gianluigi da Milano, buongiorno. Io sono milanese, abito a Milano, nato a Milano, ho 42 anni, sono radicale, dunque lontano dalla cultura cattolica, diciamo, e comunista, sicuramente più liberale. Secondo me, volevo dare una lettura all'andamento di questa elezione, secondo me, al di là della chiusura della campagna elettorale, che è stato sintomo di una tensione latente, dove ormai secondo me la Moratti sapeva che si era giocata le elezioni, gli errori sono altri, sono a monte, sono nel fatto che, ad esempio, mi viene in mente Expo, sono 5 anni ormai o quasi che si parla di mettersi d'accordo, e questo evidenzia il fatto che ci sono troppi interessi diversi che non si riescono a conciliare. Va a finire che faremo una figura pessima sicuramente a livello planetario o quasi. Vabbè. Poi non so, le piazze di Milano, ci sono piazze a Milano belle, storiche, ereditate dalla giunta Albertini, nel senso devastate, ereditate dalla giunta Albertini per parcheggi. Insomma, lei dice la Moratti. Iniziati e mai finiti. Lei dice la Moratti ha amministrato male e paga questo. Vorrei sapere cosa ne pensa. Peccato che è andato via l'amministratore Salvini, che è amministratore a Milano. Salvini. E di conseguenza mi piacerebbe capire lui cosa ne pensa di questa cosa. Vabbè, ma credo la Moratti già, ha amministrato male. Gianluigi, grazie. Giuseppe ha già risposto Salvini dicendo che comunque si è parlato avrebbe l'altro. Avrebbe risposto che in realtà molte cose sono state fatte, altre e meno. Si stanno facendo. Però gli elettori non hanno capito. Forse non hanno capito dal punto di vista di Salvini, oppure è stata sbagliata proprio questa impostazione della campagna elettorale. Non ho capito, Giuseppe, perché la Santanchè ieri insisteva, però tornagli a un cavallo, droga libera, sì, perché, cioè, insiste, perché insiste, secondo me, tra punto. L'altro, al contrario di quello che può pensare Salvini, credo che se il centrodestra ha una possibilità al secondo turno, e secondo me molto molto ridotta, è però puntare sulla radicalizzazione dell'elettorato, cioè mobilitare l'elettorato su questo, cioè quelli che non hanno votato il primo turno, a dire attenzione, che arriva l'estremista, e anche portare quelli che hanno già votato, che non sarà facile perché certo, al secondo turno si risetta tutto e tutto ricomincia. Bisogna convincere quelli che sono andati a votare innanzitutto ad andare a votare, e poi bisogna convincere gli altri. Secondo me, se c'è una possibilità del centrodestra, non è quella di parlare dei problemi di Milano, perché ormai la gente un'idea se l'è fatta, non è che in 15 giorni cambia idea. Infatti questo sì, cioè, in 5 anni l'unica possibilità per mobilitare gli elettori è quella di puntare sul comunista a Palazzo Marino, sul terrore dell'Islam, le moschee, come ha detto ieri la Santanchè, la droga, cose assurde naturalmente, però adesso io sto parlando semplicemente di strategia elettorale. Se c'è una possibilità per il centrodestra è quella della radicalizzazione dello scontro, se si punta ai toni bassi eccetera, la partita è chiusa, come è evidente. Mario da Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, niente, io continuo a sentire le persone che parlano o i politici che parlano di onda lunga di Berlusconi che si sta riducendo, di un'aggressività della campagna, quando in realtà mi penso che i milanesi possono aver giudicato il lavoro della Moratti non soddisfacente e di conseguenza hanno dato un voto ad un altro candidato. Che questo candidato poi rappresenti dei rischi a livello di quello che può essere Leoncavallo, i centri sociali, il terrorismo di sua esperienza, questi saranno giudicati la prossima volta. Però nel primo turno io credo che il giudizio sia più che aggressività della campagna, più che di altre cose, sul fatto che la Moratti non ha lavorato bene. No, ma certamente c'è questo aspetto, ma Mario, no? C'è anche questo aspetto, però Milano, tu lo sai, cioè, vivi a Milano anche se sei di Roma, cioè, però Milano è una città moderata, cioè pensare che il 48% abbia votato pensando di mandare l'estremista a Palazzo Marino, no, o questo, Leoncavallini, certamente, o no, i centri sociali o la droga libera è una l'ascoltatore follia. Ha ragione, c'è l'aspetto sicuramente dello scarso appeal del sindaco, probabilmente del fatto che non è stata vissuta come un sindaco vicino ai problemi della città, vero o sbagliato che sia. Però ci sono due aspetti. Primo, sono le preferenze di Berlusconi, che sono molto al di sotto delle previsioni di quello che aveva preso nel 2006, e questo è un segnale comunque importante. È vero che le preferenze sono abbassate un po' ovunque, però il dimezzamento delle preferenze di Berlusconi è un dato fondamentale. E la seconda cosa è il fatto che il sindaco Moratti non è che sia stato molto distante dai voti della coalizione, cioè non ha trascinato la coalizione ma non l'ha nemmeno depressa, per cui insomma il fattore Berlusconi sicuramente ha pesato. Inciso. Sentiamo l'ultimo ascoltatore, Salvatore da Padova, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io devo dire che queste elezioni hanno suscitato in me dei sentimenti contrastanti. Da un lato il sollievo per la sconfitta, perché di questo si tratta, del centrodestra, anche se devo dire che sarebbe stato meglio un maggiore ridimensionamento della Lega, che purtroppo non si è verificato. E poi? Dall'altro però sono rimasto abbastanza male per via dell'elezione di certi figuri come Fassino a Torino, che rappresentano del vecchio, ma troppo vecchio è forse anche, diciamo, un lato troppo aggrovigliato e peggiore della politica. Va bene, grazie Salvatore. Di Torino e Bologna abbiamo parlato poco meno, perché lì i giochi, insomma, sono fatti, sono stati eletti i candidati sindaci del centro-sinistra, Fassino e Merola, Torino e Bologna. Intanto, Giuseppe, qua siamo in chiusura. Allora, il padre di Nicolas Sarkozy ha confermato alla Bild che Carla Bruni è incinta. E questo l'abbiamo detto. Sì, no? Che è un nipotino. Però forse, ma no, forse sarà, se sarà una bambina, spero che sarà bella come Carla. Che dichiarazione. Qualcuno ha parlato di figlio elettorale, anche se un po' presto, perché figlio le elezioni ci saranno fatto per le elezioni a metà del 2012. 28 giugno. Il 28 giugno, che è sempre nell'ottica di complotti. 28.06, 28 giugno. Indovina in che stanza alloggiava il ministro Scan, forse due, candidato socialista alle presidenziali? 28.06. 28.06. Ma tu credi veramente al complotto? Ma in no, questa che vicenda ne so, di... io ti do delle notizie. Sei affascinato da questo tema del complotto su Strauss-Kahn? Guarda che Libero titola complotto, Repubblica dice ecco tutto ciò che non quadra in questo. Ma no, non è che sono affascinato. Sei affascinato da questo tema tutti del complotto. I giornali ne parlano come una delle possibilità. Il complotto Strauss-Kahn, chissà, che alloggiava la suite 2806 e si voterà alle presidenziali il 2806, 28 giugno dell'anno prossimo. Qua è così. Vabbè, ringrazio Giuseppe Cruciani, che mi ha fatto fare la zanzara mattutina, sempre fastidiosa ma sempre puntuta e giusta. E allora, che dire, questa settimana Oscar Giannino ancora non c'è, ci sarà Deborah Rosciani da domani al suo posto fino a venerdì. Devo ringraziare Franco Piantalida, Alessandro Marco Tulli, Alessandro Longone, Elisabetta Fusconi in redazione, Paolo Corleoni in regia, Filippo Aureggi in regia. Basta, insomma, Giuseppe, abbiamo ringraziato tutti. Grazie a te, grazie a tutti. La zanzara ovviamente stasera parlerà di questo e noi ci sentiamo domattina invece alle 7:20 per 24 mattino. A domani.